giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Secondo un'indagine sull'andamento congiunturale del secondo trimestre nel terziario Friuli Venezia Giulia, tengono fiducia e occupazione, calano i ricavi. Superati in regione i 2 miliardi di investimenti per ristrutturazioni con super bonus 110, restaurato il 4% del patrimonio edilizio. Individuato e denunciato dalla polizia di Gorizia il responsabile di una violenza sessuale avvenuta a fine agosto ai danni di una ragazza italiana di 25 anni. Rese note le motivazioni con cui la Corte d'Assise d'Appello di Trieste ha confermato l'assoluzione per infermità mentale per Alejandro Augusto Meran. I nuovi ruoli e l'importanza della medicina forense in un convegno a Udine promosso dall'Ateneo Friulano. Con l'inaugurazione di 2 nuovi padiglioni, il polo fieristico di Pordenone diventa uno dei maggiori del Triveneto. Buongiorno dal giornale radio del Friuli Venezia Giulia, sono le 12:31, un buongiorno da Eva Ciucche e Armando Mucchino per queste notizie che apriamo dunque con la congiuntura del terzo trimestre, alla fine del secondo trimestre 2023. Il Friuli Venezia Giulia conta 12 imprese in meno, le nuove nate sono 460 a fronte delle 472 che hanno chiuso i battenti, la perdita a livello nazionale è 10 volte superiore a quella della nostra regione. Sono i dati dell'Osservatorio Confcommercio Friuli Venezia Giulia raccolti da Format Research. Secondo il direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, è evidente la maggiore capacità di resilienza nelle imprese del terziario rispetto al resto del paese. Le imprese del Friuli Venezia Giulia, secondo lo studio, hanno fede nell'andamento della propria attività economica e prevedono un moderato miglioramento. Peggiora al contrario l'indice dei ricavi, così come accade anche a livello nazionale. D'altra parte, i prezzi praticati dai fornitori sono aumentati. Materie prime, trasporti e logistica. Va meglio però nel settore commercio, turismo e servizi Friuli Venezia Giulia, dove resta stabile la capacità di far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Il dato è però destinato a peggiorare alla fine del terzo trimestre dell'anno. Sempre più imprese poi si sono indebitate con le banche negli ultimi 3 mesi, banche che ricambiano la fiducia concedendo sempre più spesso i prestiti dell'importo esatto richiesto dalle aziende. Il rapporto mensile dell'Agenzia ANE evidenzia come gli investimenti per il super bonus 110% in Friuli Venezia Giulia abbia superato i 2 miliardi. Gli edifici ristrutturati sono quasi il 4% del totale del patrimonio edilizio. Il totale degli investimenti per il superbonus 110% in Friuli Venezia Giulia ha superato i 2 miliardi. È il dato che emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'agenzia Enea. Scende la percentuale di lavori conclusi, ammessi a detrazione, ma bisogna fare in fretta. Infatti, salvo proroghe allo studio da parte del governo, ci sarà tempo solo fino al 31 dicembre 2023 per terminare i lavori. I ritardi maggiori in Friuli Venezia Giulia, così come nel resto d'Italia, riguardano i condomini per i quali le pratiche burocratiche sono più gravose rispetto agli edifici unifamiliari o indipendenti. Temo che molti non riusciranno a concluderli e c'è il rischio che poi vengano chiesti i soldi ai condomini perché si passerà al regime di detrazione ordinaria, commenta Enrico Eva, segretario di Confartigianato Friuli Venezia Giulia. I lavori condominiali non terminati sono il 26% del totale in regione, in linea con il dato nazionale. Va molto meglio per le villette, con cantieri già chiusi in più di 9 casi su 10. In Friuli Venezia Giulia, più che altrove, il superbonus è stato utilizzato dai proprietari di case indipendenti. Quasi il 90% dei 12.000 edifici interessati dallo strumento non sono condomini, infatti. Gli edifici ristrutturati col superbonus in Friuli Venezia Giulia sono quasi il 4% del totale del patrimonio edilizio, un dato superiore alla media nazionale, ferma al 3,5%. L'agevolazione ha dunque riscosso un interesse maggiore qui che altrove. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla pagina del tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, Trieste 26 gradi, vento da est-nord-est, Boran 29 km orari con raffiche a 51 km orari, mare mosso con temperatura di 24 gradi e 5 decimi, a Gorizia 27 gradi, a Udine Pordenone 26 e mezzo. A Tolmezzo 22 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 20 gradi, a Tarvisio 19, Piancavallo 17, Sappada 16,5 gradi, in quota sul Monte Zoncolan 15 gradi, sull'Ossari 11,5 gradi, tornando sulla costa a Grado 26,5 gradi, a Lignano 26 gradi, temperature del mare 24 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Oggi pomeriggio cielo sereno con bora moderata su bassa pianura, zone orientali e costa. Domani cielo sereno con bora moderata su bassa pianura, zone orientali e costa, quindi come oggi. Al mattino nel fondovalle tarvisiano possibili nebbie o nubi basse. Lo scorso 1 settembre la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Gorizia a carico di un 24enne di nazionalità bosniaca responsabile di una violenza sessuale a fine agosto ai danni di una ragazza italiana di 25 anni. La donna, mentre stava rientrando nella propria abitazione in sella ad una bicicletta, è stata avvicinata da un giovane che si stava spostando con lo stesso mezzo. L'uomo, dopo un primo tentativo di approccio fallito, si è avvicinato cercando di abbracciarla. A questo punto la ragazza, divincolandosi con forza, è riuscita a respingere il giovane che, prima di allontanarsi, l'ha graffiata, cagionandole alcune lesioni. Pochi minuti più tardi la ragazza ha raggiunto il commissariato di Monfalcone, dove ha prestato denuncia. Gli accertamenti eseguiti dal personale del commissariato, anche attraverso la visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza comunale, hanno permesso di individuare l'aggressore, di 24 anni, come detto, bosniaco, che è stato denunciato in stato di libertà per violenza sessuale. L'uomo è stato identificato anche attraverso il successivo riconoscimento da parte della vittima. Sono pubbliche le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Assise d'Appello di Trieste nello scorso aprile ha confermato l'assoluzione per l'infermità mentale già decisa in primo grado per Alejandro Augusto Meran, l'uomo che uccise i due agenti di polizia Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Alejandro Meran, che il 4 ottobre del 2019 in questura a Trieste aveva ucciso i due agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, non aveva contatto con la realtà in quanto agito spinto dal delirio paranoidale. Sta scritto nelle motivazioni della sentenza con la quale la Corte d'Assise d'Appello lo ha assolto per infermità mentale, confermando la sentenza di primo grado. Il modo apparentemente razionale con cui Meran si mosse non è assolutamente in contrasto con il dato clinico relativo all'ideazione delirante a carattere persecutorio, si legge nelle motivazioni, perché nel delirio le capacità critiche non sono annientate, la critica non è distrutta, ma si mette al servizio del delirio. Alla base delle motivazioni la perizia condotta da Stefano Ferracuti, ordinario di psicopatologia forense dell'Università La Sapienza, che aveva concluso che ai fini dell'imputabilità la volontà dell'imputato era radicalmente compromessa. Meran, scrive, era convinto che lo volessero uccidere, ha fatto tutto per uscire dal luogo in cui si trovava perché nella sua mente distorta l'obiettivo era scappare e salvarsi. La Corte d'Assise d'Appello ha disposto per Meran comunque 30 anni di ricovero in una REMS. I suoi avvocati Paolo e Alice Bevilacqua hanno chiesto il riesame della pericolosità sociale. L'udienza in calendario il 22 settembre. Il procuratore generale Carlo Maria Zampi, che in Corte d'Assise d'Appello si è visto rigettata la richiesta di una nuova perizia collegiale su Meran, a tempo fino all'11 ottobre per l'impugnazione della sentenza in Cassazione. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ci sono anche 4 speleologi del Friuli Venezia Giulia nella squadra del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, composta da 8 tecnici, che partirà nel pomeriggio da Pratica di Mare per la Turchia per supportare le operazioni di recupero di uno speleologo americano bloccato a circa 1000 metri di profondità nella grotta Morca, nella provincia di Mersin, che è una tra le più profonde del mondo. Lo speleologo è impossibilitato a proseguire autonomamente a causa delle sue condizioni di salute ed è bloccato dalle prime luci dell'alba di domenica. Gli speleologi che erano con lui hanno allertato i soccorsi, coinvolgendo le autorità turche e internazionali. In Friuli Venezia Giulia sono 57 gli speleologi che fanno parte del soccorso alpino, che conta 362 tecnici. A livello nazionale sono tra i più preparati, oltre ad essere i più numerosi. Non è solo materia di film più o meno polizieschi, la medicina forense sta assumendo sempre ruoli maggiori nelle indagini sui delitti. Il Punto, in un convegno oggi all'Università di Udine. Non è un'invenzione da telefilm americano, è sempre più diffusa e utilizzata la medicina forense in campo investigativo e legale. La diagnosi differenziale tra i diversi tipi di morte nei casi in cui ci sia il sospetto di un reato è il quesito principale cui il medico legale è chiamato a rispondere dall'autorità giudiziaria. Chiarire se si è di fronte a un omicidio, un suicidio oppure a un decesso accidentale è il compito principale della medicina forense, i cui ultimi sviluppi scientifici sono stati affrontati all'Università di Udine in un convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Area Medica dell'Ateneo Friulano con le Università di Bologna, Padova, Parma e Trieste a Palazzo di Toppo Wasserman. Lorenzo Desinan, docente di medicina legale dell'Ateneo Udinese. Si possono ricordare due settori principali, uno è quello della tossicologia, che ha avuto dei passi da gigante negli ultimi tempi e che consente di trovare le sostanze tossiche anche in minima quantità, cosa che nel passato non era affatto possibile, e poi c'è tutto il settore delle indagini genetiche che consentono ad esempio di riesaminare casi vecchi trovando, diciamo, delle novità. Poi soprattutto di fronte a cadaveri mal conservati è prassi utilizzare le metodiche radiologiche che rendono semplici identificare cose che altrimenti sarebbe molto laborioso. Malgrado il progresso tecnologico e scientifico dia una mano, non sempre i risultati però sono concordanti. Uno dei casi simbolo in regione è il caso Resinovic. Ancora Desinan. Il problema è proprio che apparentemente è semplice capire se si tratta di un omicidio, di una morte accidentale o di un suicidio, non è una cosa facile. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il nucleo di polizia commerciale della polizia locale ha effettuato alcuni controlli in tre esercizi commerciali etnici in località Barriera, Trieste. In tutti e tre i locali sono state riscontrate violazioni con conseguente confisca di ingenti prodotti scaduti. Essendo considerate microimprese, sono state sanzionate per un importo di 3.340 euro. Oltre al sequestro della merce, i titolari degli esercizi commerciali sono stati sanzionati per 1.100 euro per la mancata tracciabilità e provenienza dei prodotti ortofrutticoli. Anche il nucleo operativo territoriale presente in zona Largo Barriera ha riscontrato alcune irregolarità in un esercizio commerciale di Via della Madonnina. Il locale è stato sanzionato per la vendita di alimenti scaduti che sono stati posti sotto sequestro. Continua a crescere la fiera di Pordenone. Oggi vengono inaugurati due nuovi padiglioni che rendono così il polo fieristico della destra Tagliamento uno dei maggiori del Triveneto. 5 bis e 5 ter sono i due nuovi padiglioni, 3.560 metri quadri di strutture mobili che ampliano gli spazi del quartiere fieristico di Pordenone. Un investimento da 2 milioni e mezzo di euro che la fiera ha finanziato interamente con risorse interne. Salgono così a 11 per 35.000 metri quadri di superficie coperta i padiglioni del polo fieristico che ne fanno adesso uno dei maggiori del nord-est. Renato Pugliatti, presidente della fiera di Pordenone. Noi abbiamo la possibilità così di ospitare le nostre manifestazioni, ma anche quelle che ospitiamo con altri organizzatori, in piena sicurezza, in piena armonia, con la possibilità anche di svilupparle. I due nuovi padiglioni ci daranno la possibilità di avere fino a 5 piccole e medie manifestazioni contemporanee e quindi liberare un po' di spazio durante il nostro calendario di ogni anno e avere la possibilità così di inserire le nuove manifestazioni che già stiamo preparando per il futuro. Il primo utilizzo dei nuovi padiglioni è già dietro l'angolo per la Fiera Internazionale dei Materiali e Macchinari per la Produzione di Motori Elettrici il 20 e 21 settembre e a seguire il Salone SICAM dal 17 al 20 ottobre, con la mente rivolta anche a una nuova manifestazione. Ancora Pugliatti. Stiamo lavorando per avere una manifestazione dedicata agli anziani, ai disabili, alle persone che hanno bisogno di un aiuto. Si chiamerà 104 Caregiving, quindi dedicata proprio all'aiuto agli altri. Sarà la prima rassegna di questo tipo in Italia e andrà a integrare l'ampia offerta di Pordenone Fiere. Sta andando molto bene, la Fiera di Pordenone ha la possibilità di avere dei bilanci in ordine, 30-32 manifestazioni negli anni dispari, 34-36 negli anni pari, abbiamo un'offerta in ogni campo, ma principalmente nelle fiere B2B, che sono quelle che danno occupazione, fanno vedere le nostre migliori aziende in Italia e all'estero. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli, Venezia Giulia. Si apre oggi il bando rivolto alle amministrazioni locali e agli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, con il quale la Regione finanzierà la riqualificazione delle strutture adibite e da destinare a centri di aggregazione giovanile. Il contributo potrà essere pari al 100% della spesa ammessa per gli enti locali e al 90% per gli altri enti pubblici. In entrambi i casi il sostegno non potrà superare il valore massimo di 200.000 euro. Il finanziamento potrà essere utilizzato per ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ampliamento dei locali. Annunciato poco fa l'inizio dei lavori per la nuova sede provvisoria della scuola Guido Corsi al Molo IV del porto di Trieste. Sarà probabilmente una delle scuole della regione con la vista migliore. Da gennaio fino all'estate del 2025 sono iniziati i lavori in Molo IV per la costruzione della sede temporanea della scuola media Corsi a Trieste. I 300 studenti dell'istituto nell'ex spazio congressi avranno a disposizione 15 aule con capienza di 21 alunni e 3 da 25, oltre a una piccola palestra. Per le ore di educazione fisica si potrà usare il cortile della vecchia scuola, sono previste delle convenzioni con il centro congressi del vicino Porto Vecchio, ma sono lo studio collaborazioni anche con scuole di vela e canottaggio per sfruttare la vicinanza con il mare. Il costo per l'affitto della struttura temporanea sarà di circa 600.000 euro con 250.000 di lavori, mentre per le scuole, compreso il rinnovo dei locali della scuola Corsi di via Ruggero Manna, il comune investirà 30 milioni di euro, in parte provenienti dal PNRR. La scuola temporanea aprirà dopo le vacanze di Natale a causa delle difficoltà di reperimento dei materiali. Nello stesso periodo partiranno i lavori del plesso scolastico nella vicina via Ruggero Manna. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Tutto è pronto per la festa dei sapori e delle tradizioni. L'edizione 2023 di Friuli Doc sarà inaugurata alle 17.30 in Piazza Libertà. Ad annunciare l'apertura ci sarà la fanfara della Brigata Alpina Iulia alle 17. Numerose le iniziative in programma, alcune partite già in mattinata come le esperienze sensoriali per conoscere e degustare l'olio extravergine di oliva o il prosciutto di San Daniele. Nel pomeriggio partiranno i laboratori e altre degustazioni, dal formaggio Montaggio DOP alle birre artigianali alla minestra della solidarietà. E quest'anno Friuli Doc aiuta Mortegliano, il comune più colpito dal maltempo, raccogliendo i fondi a sostegno della ricostruzione. A Palazzo Mantica invece alle 17.30 sarà inaugurata la mostra dei racconti popolari friulani, racconti popolari friulani per la scuola, a opera della Società Filologica Friulana, un'esposizione che raccoglie un patrimonio di 2.300 racconti. In contemporanea, nella sua sede in via Manin, la Società Filologica espone le illustrazioni delle pagine del diario scolastico friulano Olmis in una mostra aperta fino al 29 settembre. Sempre in tema di tradizioni, il Museo Etnografico del Friuli è aperta fino al 17 settembre la mostra temporanea Trame antiche e moderne. Una festa per il nuovo fabbricato della Fondazione Bambini Autismo Onlus di Pordenone, che quest'anno compie 25 anni. L'edificio ospiterà l'Unione di Urgenza e Prevenzione per l'Autismo insieme alla Casa Modello per il Dopo di Noi. La festa, in programma alle 18, sarà anche un'occasione di trasparenza nei confronti dei donatori per mostrare l'impiego fatto dei loro fondi. Il nuovo centro, quando sarà pronto, dialogherà con l'ospedale civile per la cura e la prevenzione della salute delle persone con autismo. Ce ne parla il direttore generale Davide Del Duca. Quando si arriva al tetto di un edificio è sempre buona cosa fare una festa per ricordare il traguardo raggiunto. Stiamo parlando di un edificio che ospiterà due progetti. Il primo è l'unità di urgenza e prevenzione per l'autismo e la soprastante casa per il dopo di noi. Sono due progetti abbastanza innovativi e con questa festa noi intendiamo non solo appunto festeggiare il tetto, ma anche ringraziare tutte quelle istituzioni pubbliche e private, ma anche privati cittadini che hanno creduto in questi progetti e hanno voluto dare dei fondi perché le cose si potessero fare. Cosa offrirà questa struttura quando sarà finita? Quando sarà finita l'unità di urgenza e prevenzione sarà una piccolissima struttura sanitaria in collegamento con l'ospedale civile di Pordenone che si prenderà cura delle persone con autismo o comunque delle persone neurodiverse, le quali di solito da un punto di vista sanitario sono abbastanza trascurate, e questo non per la negligenza del personale ospedaliero eccetera e medicale in generale, ma perché sono oggettivamente degli utenti poco portati ad avere una compliance, per cui difficili da trattare anche nelle cose più banali, che ne so, il prelievo del sangue. Questa struttura invece sarà pensata per queste persone, con personale che conosce queste persone da un punto di vista tecnico e per cui avrà i tempi e i modi per fare in modo che queste persone possano fare questi esami, si possano nella vita curare. Tutto questo viene fatto in aiuto e appoggio dell'ospedale civile. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un altro solista di livello assoluto al Verdi di Trieste per il festival organizzato dalla Società dei Concerti. Dopo Jordi Savall, ieri sera il concerto del violinista Maxim Vengerov. Da un lato la passione e il rigore del romanticismo strumentale tedesco, dall'altro la pulizia di scrittura e l'ironia tutta novecentesca di Prokofiev, al centro uno dei più grandi violinisti del mondo. Sono gli ingredienti del secondo concerto del festival che sta riempiendo di musica Trieste, quello di Maxim Vengerov e della pianista Polina Setinskaya. Partenza da Casa Schumann a Lipsia con le tre melodie opera 22 di Clara, con la terza sonata del marito Robert e con lo scherzo della sonata Fae del giovane amico di una vita, Johannes Brahms. Nella seconda parte, di Prokofiev, le cinque melodie e la sonata opera 94. Lavori tutti di grande impegno tecnico, risolti da Vengerov con la consueta pienezza, ricchezza di sfumature e, quando necessario, potenza di suono. Il Festival Triestino oggi prosegue con una serie di appuntamenti in alcuni spazi più piccoli, pubblici e privati, in gran parte già segnalati con il tutto esaurito dalla Società dei Concerti che li organizza. Il prossimo appuntamento al Verdi è con l'Orchestra del Teatro, dopodomani, e con un altro solista di livello assoluto, il violoncellista Antonio Meneses. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Artisti Associati, centro di produzione teatrale, ha presentato la nuova stagione che raddoppia con quasi 40 proposte in due sale fra il nuovo teatro comunale di Gradisca di Sonza e la sala Bergamas. Esclusive prime regionali, un debutto nazionale e nomi prestigiosi per un'offerta originale. Sentiamo il direttore artistico Walter Mramor. Quest'anno a Gradisca grandissime sorprese. E innanzitutto una moltiplicazione degli spettacoli, perché la stagione si svolgerà fra i due teatri, il Teatro Comunale e la Sala Bergamas. E saranno oltre 37-38 gli spettacoli proposti per una settantina di repliche. Ovviamente la grande stagione di prosa al Comunale, che comincia con il giallo dedicato al Tenente Colombo, per passare poi a un omaggio a Edith Piaf, oppure il testo di Stuparic, proposto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, quell'anno di scuola, per arrivare a un bellissimo testo toccante di Mattia Torre. E invece una serata molto divertente e simpatica con il suo spettacolo 40 e sto. In parallelo, in sala Bergamas, c'è la rassegna dal titolo Innesti. E lì aspetteremo 10 spettacoli che parlano del contemporaneo, parlano dei problemi di oggi, ci fanno anche divertire e ci fanno anche riflettere su temi molto importanti. Il primo spettacolo si chiama Lo schifo, è un testo di Stefano Massini ed è dedicato a Ilaria Alpi. Tanta attenzione anche alle nuove generazioni con spettacoli dedicati ai piccoli. Tantissimi spettacoli dedicati ai giovani, ci saranno tre percorsi paralleli, uno si svolgerà alle 9:30 al mattino, l'altro si svolgerà alle 16 la domenica pomeriggio, per arrivare poi in primavera con una rassegna tutta dedicata ai bimbi. È stato pubblicato sul portale istituzionale dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia il bando per l'attribuzione dei benefici regionali destinati agli studenti dell'Iz Academy Friuli Venezia Giulia e agli istituti tecnici superiori. Per l'anno accademico 2023-2024 l'amministrazione regionale ha deciso di applicare per il bando Iz gli aumenti di ISEE e ISPE già previsti per gli studenti universitari, oltre ad aumentare gli importi delle borse di studio. Prevista anche la messa a concorso di posti alloggio destinati agli studenti degli istituti tecnici delle case dello studente gestite da Ardis nelle sedi di Pordenone, Gorizia e Udine. Era questa l'ultima notizia per questo GR, ha collaborato in redazione Laura Sarasini, per la parte tecnica Vassia Crismancic e Carlo Morello, da Eva Ciucca e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.